Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo da un lato del MES, ma soprattutto della famosa struttura o cabina di regia per utilizzare e per preparare i piani con cui dovremmo utilizzare i soldi del Recovery Fund, il cosiddetto recovery plan, perché da quello che il Premier Conte ha illustrato oggi in un'intervista, la struttura è piramidale: in alto c'è il Presidente del Consiglio, poi affiancato da due ministri, Patuanelli e Gualtieri, quindi sviluppo economico e economia e finanze, poi sei manager, ognuno per un'area, e sotto questi sei manager circa 300, da quello che si capisce, 300 esperti in tutto per le varie aree. C'è un piccolo problema. È chiaro che l'obiettivo di questa struttura deve essere, al di là di come verrà fatta, avere una corsia privilegiata per realizzare le opere e soprattutto controllare lo stato d'avanzamento. Non basta fare l'appalto, sappiamo che in Italia poi la burocrazia ci si mette di mezzo, che da quando stanzi i soldi e quando l'opera parte ci sono in tempi normali 8 anni solo per le procedure burocratiche, e quindi l'obiettivo, a mio avviso, deve essere appunto di avere una struttura più veloce di quelle dell'iter normale e anche in grado di controllare i lavori. C'è una preoccupazione, e cioè questa struttura piramidale cosa farà con i ministeri interessati? Non so, penso al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente, solo per citarne alcuni. Andrà a bypassarli? Andrà a sovrapporsi? Andrà ad affiancarsi? Il rischio c'è che i ministeri poi possano opporre resistenza, o comunque che se non c'è stato uno snellimento burocratico e ti serve poi la firma e il via libera del ministero, tutto si riblocchi, e quindi invece che aver trovato una struttura, una corsia preferenziale, avremmo affiancato una corsia a quella già esistente, con il rischio di creare un ulteriore ingorgo. Questa non è una certezza, è un dubbio legittimo, visto ancora il ritardo con cui stiamo apprendendo come dovrebbe funzionare questa struttura, perché l'obiettivo finale deve essere appunto far partire i lavori, cioè a un certo momento arrivare a ridurre la differenza tra lo stanziamento, cosa che abbiamo visto anche nella fase estiva: il governo stanzia i soldi, poi le regioni non attivano i piani e i soldi non vengono utilizzati. Ecco, evitare che questo avvenga con il Recovery Fund. Di questo parleremo anche dell'ILVA, perché invece lo Stato torna nell'acciaio con Invitalia, una società guidata da Domenico Arcuri, che entrerà al 50% nella Investco, controllata dal colosso ArcelorMittal. Ne parleremo perché c'è una specie di ritorno al passato, perché nel 1995 venne ceduta ai Riva con il piano di privatizzazione, il commissariamento è arrivato nel 2012. Ripercorreremo anche la storia e poi parleremo anche delle attese dei mercati finanziari nell'appuntamento con Alessandro Platerotti. Dietro la notizia: meno 0,30% in questo momento Milano, meno 1,1 Dow Jones, più 0,40 scusatemi Francoforte, meno 0,30 Londra. Ma ricordo che veniamo da una settimana di record in America e comunque di livelli molto alti anche in Europa, con un FTSE MIB che la settimana scorsa si era riportato ai livelli pre-Covid, intendo dire in assoluto, quindi a febbraio. Di questo parleremo anche da questo punto di vista dei mercati, come sempre, del possibile rischio bancario. C'è stata un po' di maretta nel fine settimana su Unicredit, un consiglio di amministrazione convocato domenica, si è addirittura ipotizzata l'uscita dell'amministratore delegato Jean-Pierre Moustier, cosa che invece poi è stata smentita dallo stesso Unicredit. una riunione informale, non un CDA straordinario, è stato chiarito quello di ieri, anche perché il comitato nomine mercoledì darà ufficialmente inizio al procedimento relativo alla governance. Però sarà l'occasione per parlare, tra l'altro, di un mercato che ha preso la notizia e ha penalizzato in maniera molto forte il titolo, meno 3,5%, Unicredit. Tra chi cala oggi, aggiungo Era, meno 2,20, Poste, meno 2 come Mediobanca, l'1,90 lo perde Tenaris, l'1,70 A2A come Biperbanca, l'1,60 il caro di Eni e di Buzzi Unicem, l'1,5 quello di Mediolanum e di Unipol. Ebbene, Pirelli più 4,23, Prismian più 3,5, di Assoli in più 2,2, Campari più 2 come Atlantia e Snam guadagna invece l'1%. 349-238-6666 per sms e whatsapp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Dunque, partiamo con la Cina. Voi sapete che chi vi parla non vuole mollare il colpo con le responsabilità da appurare della Cina nella gestione, per gestione intendo dire anche comunicazione del virus. Ormai è certo, non voglio ripercorrere tutti i documenti, che nel momento in cui la Cina dichiara l'allarme al 20 di gennaio, il virus sta circolando in Cina almeno da dicembre, con numerosi casi, ma la cosa per cui ne parlo è ancora aspettiamo che la Cina apra, auguri, a un'inchiesta internazionale, magari gli ispettori dell'OMS, insomma, per capire come si è sviluppato e per evitare che possa arrivare dall'Asia l'ennesimo virus, visto che Corona è arrivato dopo SARS, aviaria ed altro. Sappiamo tutti che sotto i riflettori ci sono le condizioni, insomma, inaccettabile a mio avviso, igieniche dei wet markets cinesi, dove gli animali per tradizione vengono macellati sul posto, e ho detto molte volte che li ho visti io, le volte che mi sono recato in Cina, sono, insomma, ecco, non li suggerirei ai vegetariani, mettiamola così, ma soprattutto non c'è una condizione igienica che possa neanche lontanamente assomigliare a quelle che abbiamo noi in Europa con i vari regolamenti europei. Ma la cosa per cui ne parlo oggi è perché il quotidiano del popolo, che è il quotidiano ufficiale del Partito Comunista Cinese, continua a spingere, e la stampa chiaramente lo segue, anche perché la libertà di stampa non esiste come, neanche come dicitura in Cina, sulla versione che il virus si sarebbe sviluppato nel mercato alimentare di Wuhan, ma non sarebbe nato da lì. Perché non è partito dai pipistrelli tenuti in gabbia nel famigerato mercato di Wuhan, ma è arrivato lì. Oggi scrive il quotidiano del popolo che ogni prova disponibile induce a sospettare che il coronavirus sia solo emerso e non partito da Wuhan. Sarebbe arrivato con le derrate alimentari surgelate importate dall'estero. Faccio notare che tutti importano derrate alimentari dall'estero, surgelate, ogni paese, però la sfiga ha voluto che solo nel wet markets con condizioni igieniche inaccettabili, cara Cina, si sia sviluppato il virus, non in Brasile, non negli Stati Uniti, non in Europa, non solo, allora, la sfiga che queste derrate alimentari surgelate hanno colpito proprio nel mercato di Wuhan. Pensa un po'. Allora, questo è entrato nella narrazione cinese, la catena del freddo usata per importare i prodotti ittici. Il problema è che non riuscivano a trovare un gancio, perché prima hanno controllato i salmoni, che poi risultarono sani, poi hanno controllato gli imballaggi, e poi hanno iniziato a accusare i contenitori usati per la catena del freddo della carne di maiale tedesca, quelli delle ali di pollo brasiliane, quelle del manzo argentino, quelli dei filetti di pesce indiani, del salmone scandinavo e canadese, dei gamberi sudamericani. Ora, siccome questi imballaggi che ho citato vanno in tutto il mondo, non vanno solo in Cina, ci potete spiegare, cara Cina, come mai solo nel mercato di Wuhan gli imballaggi surgelati avrebbero generato il virus, che fa una spiegazione che non sta in cielo in terra? Giustamente Mi scrive un ascoltatore, sì, sarà arrivato da Cologno, ecco, certo. Sì, l'avremmo, da Codogno l'avremmo creato noi a questo punto. Per cui, da allora, faccio notare che da allora gli esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità non hanno ancora potuto, gli ispettori dell'OMS, visitare il mercato, il famoso mercato alimentare di Wuhan. A luglio da Ginevra partirono un paio di studiosi dell'OMS per preparare la missione, ma passarono 2 delle 3 settimane di permanenza in Cina chiusi in un albergo di Pechino per la quarantena. Adesso si torna a parlare di ispezione del mercato, che è chiuso dal 1 gennaio, ampiamente disinfettato. È chiaro che un'ispezione ora non potrebbe dare alcuna risposta scientifica. Ma io dico, ma la Cina, altro che fare campagne a botte di soldi, per campagne simpatia, oltre alla spiegazione che sarebbe arrivato da qualche prodotto surgelato dai paesi che ho citato, ha fatto un'indagine interna? Ci vuole dare la sua versione credibile, per favore, perché non siamo su scherzi a parte. Come si sarebbe... Perché sarebbe importante, perché per evitare che capiti nel futuro. Non so. Invece no. Poi se trovo qualcun altro che mi difende la trasparenza della Cina... Vabbè, andiamo avanti. Del vaccino invece avete già ascoltato le nostre GR24. Il Fondo Monetario dice che il virus minaccia la ripresa dell'area euro, le prospettive sono incerte, dal recovery plan arriverà una significativa spinta alla crescita dell'area euro se attivato in modo efficace. E poi sul MES dice può essere un cuscinetto per i paesi ad alto debito. Allora, la Commissione Europea nel frattempo chiede ai paesi che si coordinino sulle misure anti-Covid. Da noi, lo sapete che ne ha parlato il nostro GR24, le regioni Veneto, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e le province autonome di Bolzano e Trento hanno presentato al governo una proposta di mediazione per evitare una chiusura completa del settore turistico invernale. Prevede la possibilità di aprire gli impianti di risalita già in occasione delle prossime festività natalizie per gli ospiti degli alberghi delle seconde case. Poi la Val d'Aosta invece ha chiesto di poter aprire in quel modo almeno dal 7 gennaio. Io farei, ma non sono un esperto, una grossa differenza tra Natale, Capodanno e poi dal 7 gennaio in poi. Compasce però il presidente della provincia di Bolzano, dice mancano tutti i presupposti per l'avvio della stagione invernale a Natale e Capodanno. Dobbiamo creare le condizioni per partire dopo Capodanno. Mi sembra, devo dire la verità, una delle posizioni più ragionevoli. Inutile continuare a pensare che si possa aprire a Natale e Capodanno gli impianti sciistici. Ancora, per quello che riguarda i dati, oggi inflazione resta negativa a novembre, meno 0,2%, rincara invece quella del carrello della spesa, quindi beni alimentari, cura della casa e persona, più 1,5% contro il più 1,2% di ottobre. La Confcommercio stima un calo dei regali, delle spese natalizie intorno al 18% in meno rispetto allo scorso anno. Solo il 74% dei consumatori farà regali, contro l'87% del 2019. Tredicesime più leggere, incertezza economica e restrizione della pandemia frenano i consumi delle famiglie, a dicembre meno 12% rispetto all'anno scorso. Io dico una cosa, e anche i consumi di dicembre e Natale, dice la Confcommercio, faranno un calo del 12%. Ci metterei la firma per un calo del 12% e la spesa di regali meno 18%. Perché insomma abbiamo altri settori, penso all'alberghiero, alla ristorazione, che ci metterebbero la firma anche loro per un meno 12, meno 18%. Non voglio dire che non sia drammatico, perché mi rendo conto che meno 12, meno 18 arriva nel periodo in cui tu fatturi di più per molti negozi, quindi ha un peso molto più forte rispetto a un meno 12% nel mese di settembre o nel mese di maggio. Però lo stesso presidente di Confcommercio, Sangalli, dice saranno tali difficili, ma c'è tanta voglia di ripartire. Sarà un Natale difficile anche dal punto di vista economico. La crisi rallenta i consumi e l'emergenza Covid obbliga ancora molte imprese a restare chiuse come quelle della ristorazione. Ma c'è tanta voglia di ripartire che va incoraggiata. Bene, come da noi richiesto che l'ultimo decreto preveda l'esonero degli oneri fiscali per le imprese più penalizzate. Un'attenzione necessaria che chiediamo anche per gli indennizzi che devono essere ancora rafforzati. E su questo il governo sta ragionando, perché è arrivato via libera, l'abbiamo già detto, a Ristori Quater, che il rinvio in primavera delle scadenze fiscali per chi allora, alcune scadenze vengono spostate dal 10 dicembre, ma soprattutto per chi ha avuto esteso a imprese e partite IVA che abbiano subito cali di fatturato superiori al 33% nel primo semestre di quest'anno rispetto al primo semestre del 2019 e allargando quindi la platea dei beneficiari, che beneficiari degli altri decreti erano solo quelli dei codici Ateco che venivano chiusi o la cui attività veniva fortemente limitata. La larga appunto anche ad altri, tra cui gli agenti, i rappresentanti di commercio e i procacciatori d'affari, avranno ristori pari al 100% di quelli già avuti con il DL Rilancio. Ricordo che i quattro ristori, il primo è servito quando è arrivato il mini lockdown, quello in cui tutti eravamo gialli per intenderci, e che colpiva soprattutto ristoranti e bar con la chiusura alle 18, soprattutto, non detto solo, anche palestre, anche cinema, teatri e quant'altro. Poi è arrivato Ristori Bis 2, il primo valeva 2,4 miliardi, il secondo 1 miliardo perché andava a finanziare e aumentare il beneficio delle categorie che avevano registrato ulteriori restrizioni. Per esempio andava a aumentare il rimborso dei ristoranti bar che in area rossa trovavano non potevano più aprire fino alle 18, ma potevano fare solo asporto, uno degli esempi. Poi è arrivato Ristori Ter, un altro 1,5 miliardi, il terzo, perché andava a dare i soldi a quelle attività economiche che delle regioni che da gialle erano finite poi in rosse, perché sappiamo che nel frattempo non hai avuto solo gialle, rosse e arancioni, ma hai avuto regioni che da penso la Toscana, un esempio su tutte, da gialla è finita direttamente a rosso. Il Ristori 4 è quello che vale 8 miliardi, di cui 5 soprattutto per le scadenze fiscali, cioè che vengono rinviate. C'è l'ipotesi nel 2021, per chi abbia subito una significativa perdita di fatturato, può essere previsto l'esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi, quindi non solo uno spostamento, un rinvio a primavera, ma un esonero totale o parziale. Per quello, domani parte il codice lotteria scontrini, ne parleremo domani ricordando esattamente come si fa a partecipare pagando appunto con le carte. Per quello che riguarda invece la cassa integrazione, segnalo che questa mattina Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, a 24 mattina con Simone Spezia, ha detto la cassa integrazione ce l'hanno 6.600.000 lavoratori per quasi 25 milioni di prestazioni, lo 0,2% non ha ancora ricevuto nulla. I lavoratori che noi abbiamo pagato sono 6,6 milioni di lavoratori da marzo in poi, per un totale di prestazioni di 24,8 milioni. 3,5 milioni di questi 6,6 milioni sono stati pagati direttamente all'INPS e 3 milioni circa sono stati pagati anticipati dall'azienda con guagliate e contributi. Chi è che non ha mai ricevuto nulla? Si tratta di uno 0,2% di lavoratori, quelle 3.000 persone che non hanno mai ricevuto. Allora, sempre Tridico ha detto questa mattina: il reddito di cittadinanza è un paracadute che ha preservato la coesione del paese. Però ha anche detto, cioè quindi con misura di welfare, cosa che io continuo a ripetere da quando esiste il reddito di cittadinanza, ha detto che invece il suo contributo sulle politiche attive, cioè sulla creazione di posti di lavoro, nel trovare posti di lavoro tramite Navigator, il contributo è marginale, lo dice il presidente dell'INPS. Se non avessimo avuto quel reddito di cittadinanza, oggi 3,1 milioni di utenti di cittadini sarebbero veramente sul lastrico, un disagio sprofondati e difficile da recuperare, anche perché appunto per loro strumenti quali la cassa integrazione o la NASPI non li avrebbero raggiunti. Se non ci fosse stato questo paracadute, noi avremmo avuto, io penso, a rischio la coesione sociale del paese. Sicuramente c'è da migliorare qualcosa, soprattutto sul lato delle politiche attive. Tuttavia devo dire una cosa, che l'anno 2020 non può essere un anno di test delle politiche attive del reddito di cittadinanza, perché appunto il paese è fermo. Io vedo il reddito di cittadinanza più come uno strumento di sostegno al reddito, di lotta alla povertà, che come uno strumento di politiche attive, sinceramente. Quindi il legame con le politiche attive e con tutta la questione Navigator, ricollocamento, è sbagliato secondo lei? No, c'è, ma è marginale. Oh, lo dico perché adesso ho ricevuto una mail dopo la classifica e il messa da Navigator del responsabile comunicazione dell'ANPAL, che stiamo guardando, gli inviteremo. Però faccio notare a chi fa il responsabile della comunicazione dell'ANPAL che il presidente dell'INPS lo ritiene marginale, non solo il sottoscritto. Poi ho ricevuto anche delle comunicazioni su Facebook, su un sito che si occupa del programma, proprio relative al Navigator, che hanno detto: no, guardate che il lavoro l'abbiamo fatto, le stiamo, siccome è un pacco di roba, come si dice in gergo, la stiamo analizzando, domani ne parleremo, stiamo cercando di capire e sistematizzare i dati, perché tutto quello che riceviamo lo processiamo, diciamo così, non è che lo mandiamo in onda così solo perché è arrivato via Facebook o dal responsabile di comunicazione di ANPAL. Capisco come vi possa essere grande entusiasmo nei Navigator per quello, per come li ho definiti. Guardate che il termine marginale è fondamentale. Io non ho mai detto che nessun lavoro sia stato trovato dai Navigator. Bisogna capire però se 3.000 Navigator con quegli stipendi sono serviti a trovare lavoro o comunque quei lavori alla fin fine, e bisogna capire che cosa succede dentro l'ANPAL. Comunque vi arriverò, non c'è problema. Allora, il MES invece, attenzione, qui quello che si sta discutendo nell'Eurogruppo è la riforma del MES rispetto al MES originario, quello che era pieno di condizionalità. Il MES, il Covid MES invece, ha come unica condizionalità quello di essere utilizzato per la spesa sanitaria. Sapete benissimo come la penso sul MES. Ora, se l'obiezione ha delle condizionalità, l'obiezione è vera, ma ripeto, ne ha di più il Recovery Fund. Il Recovery Fund è pieno di condizionalità, oltre che essere monitorato ciclicamente come spendi quei soldi. Lo puoi utilizzare solo per alcuni settori, viene verificato il tuo piano con la Commissione Europea, parlo del Recovery, viene guardato ciclicamente come stanno andando avanti i lavori, a costo poi di levarti i finanziamenti. Quindi è vero che il MES Covid ha la condizionalità delle spese sanitarie, ma è anche vero che c'è anche il recovery. Dopodiché Gualtieri ha detto: l'Italia vuole l'accordo sul MES, quello che stanno andando a guardare è la riforma del MES, e Gualtieri ha detto, devo dire che anche Crimi ha detto la stessa cosa, cioè approvare la riforma non è non vuol dire utilizzarlo, vuol dire solo approvare una modifica dello strumento, e anche Gualtieri ha detto appunto la riforma del MES è distinta dal suo utilizzo. Tutte queste decisioni non investono in alcun modo l'utilizzo del MES. La riforma del MES è infatti cosa distinta dalla scelta se utilizzare o meno il MES sanitario da parte dell'Italia. Su tale questione, come è noto, esistono posizioni diverse nel Parlamento e nella stessa maggioranza. E come il Governo ha sempre detto, ogni decisione a questo riguardo dovrà essere condivisa dall'intera maggioranza e approvata dal Parlamento. Dunque, qualcuno mi dice, Zai ha detto, sì, l'abbiamo fatto ascoltare nel GR, come faccio a spiegare alle persone che possono andare in giro per negozi ma non possono andare a sciare? E mi scrive un ascoltatore, io invece vorrei che mi spiegassero perché i ragazzi possono andare in giro per negozi ma non possono andare a scuola. Guardi, e poi visto che il Piemonte ha bloccato comunque le seconde e le terze medie, da padre di 4 figli, 2 liceali e un universitario, a casa una figlia alle elementari, abbiamo anche un ministro per l'università, se c'è batta un colpo, ci sono d'accordo con lei. Sì, ma guardi, infatti A me fa impazzire questa cosa dei governatori. Io non è che però posso fare ogni volta una puntata sui governatori. E questa volta vale anche per Zaia, che è uno di quelli che quantomeno come capacità di organizzare il territorio nella seconda ondata si è mosso bene. Ma perché c'è questo? Io capisco le categorie economiche, ma abbiamo detto mille volte, le categorie economiche in ginocchio ci sono anche nei ristoratori, negli albergatori, nei negozianti che non vedono un turista straniero e anche un turista italiano da mesi, e vale per tutte le città d'arte italiane. Capisco benissimo il problema degli impianti di salita, vediamo se si trova una soluzione dal 7 gennaio nel permettere l'utilizzo a chi è in albergo e o nella seconda casa. Ho visto una proposta, adesso vediamo cosa succede al DPCM, di permettere comunque l'apertura degli alberghi, se tu ti puoi spostare regionalmente per andare in montagna, andrei a camminare, non andrei a sciare. Ma, e va bene, cioè, e capisco la difficoltà, perché sappiamo che Natale, Capodanno è un buon pezzo della stagione, anche se faccio notare ai proprietari di impianti sciistici, maestri da sci e albergatori, che nel 2020... la stagione invernale l'avete salvata tutta, perché i primi lockdown arrivano al 7 marzo. Quindi attenzione, perché avete perso nulla. La stagione estiva, certo che sono mancati gli stranieri come in tutta Italia e in tutta Europa, ma diciamo le località montane nella stagione estiva hanno lavorato. Quindi troviamo una soluzione, e capisco la difficoltà. Siete messi, lo dico, non è una gara chi sta peggio, ma sono messi meglio di loro colleghi che operano appunto nei centri storici o anche nei centri urbani, che sono praticamente chiusi tra smart working, assenza di turisti e anche parziale lockdown. Va bene tutto, ma adesso non è che il problema del paese possono diventare le piste da sci e gli impianti di risalita. Anche perché vorrei vedere la stessa aggressività nel presidente del Piemonte Cirio, nel presidente della regione Veneto Zaia, poi chi altro ha parlato oggi, Fontana sugli impianti meno, visto soprattutto Cirio e Zaia. Ecco, perché non avete la stessa aggressività nello spiegarci quando e come volete riaprire le scuole? Perché è più importante che lo studente di scuola media inferiore o media superiore, Zaia e Cirio, possa andare a usare la funivia o la seggiovia, e non ho ancora ricevuto una mazza di indicazioni su come le scuole, le regioni si stanno organizzando per le scuole? Potete farcelo sapere? Perché sembra che il problema sia che questi ragazzi possano andare a sciare con i genitori, ma non che possano andare a scuola. Siamo l'unico paese in Europa ad aver chiuso le scuole per così tanto tempo e averle chiuse in alcuni casi completamente. L'unico. Però vedo che il problema nazionale dei presidenti delle regioni sono gli impianti di risalita, e non mi rispondete, è un settore importante. Anche le palestre sono un settore importante. Va bene? Tutti i settori sono importanti, non ce n'è uno, anche chi lavora con le fiere, con i matrimoni, anche quelli sono importanti. Su. Che palle. Allora, cioè, e poi il presidente delle regioni, no? Sembra sempre che loro abbiano una soluzione in tasca. Ce l'avete una soluzione in tasca? Allora iniziate a dircela intanto col trasporto locale. Cirio, Zaia, ci dite cosa avete fatto sul trasporto locale e com'è che garantite che gli studenti possano andare a scuola? E poi si va a scendere. È prioritaria la sciata o l'istruzione in un paese che vuole competere col futuro? Ditemelo. Se no, decidiamo che tutti i nostri figli devono diventare maestri da sci, e a questo punto... fate bene a dirlo, tutti quanti a diventare maestri da sci. Dai, metto in pubblicità. Focus Economia. Minuti. Allora, chi mi dice, lei critica le regioni e lecca qualcosa al governo? Ecco, ascolti questo passaggio e vediamo se lecchiamo qualcosa al governo, nel francesismo che lei ha usato. Allora, recovery plan e governance, ecco, qualcuno propone le lezioni in seggiovia, ecco, potrebbe essere una soluzione. Allora, recovery plan e governance sono inglesismi, cosa vogliono dire? Vogliono dire che noi prima di capire se, intanto prima di utilizzare questi soldi, abbiamo già delle direttrici. In realtà le direttrici te le dà l'Europa e ti dice digitale, economia circolare sostenibile, quindi verde, e dal punto di vista ridurre le disuguaglianze dentro il paese, quindi gli investimenti anche in infrastrutture. Ora, il governo ha già delineato le grandi aree di intervento, perché la governance, cioè chi è nella stanza dei bottoni e che potere hanno questi bottoni, diventa fondamentale. Perché diventa fondamentale? Perché sappiamo che in questo paese ci vogliono 8 anni tra quando un'opera viene deliberata e poi viene minimo 8 anni cantierata. Sappiamo che esistono i TAR, non solo del Lazio, che esistono i ricorsi, che per fare gli investimenti o andare avanti con un piano poi abbiamo un problema burocratico enorme, e c'è anche la paura della firma nei dirigenti della pubblica amministrazione, per la paura poi di incorrere in ricorsi e denunce e quant'altro. E allora si è detto: attenzione, per favore trovate una soluzione per utilizzare questi soldi che sia una corsia preferenziale. Da quello che si è capito, l'idea è, ma chiedo conferma a Dino Peso, l'editorialista Sole 24 Ore. Dino, buonasera. Buonasera. L'idea è di una piramide, come sta chiamata, in cui sia Presidente del Consiglio al vertice, sotto il Ministero dell'Economia, quindi Gualtieri, e il Ministero dello Sviluppo Economico, Patuanelli, e poi sotto di loro 6 manager per 6 macro aree di intervento, sotto i quali 300 esperti. Ora, prima domanda. C'è chi obietta, lo ha fatto Carlo Calenda oggi, ma lo cito solo perché è un esponente politico, dice: attenzione, questa piramide non va a scalzare i ministeri, rischia di essere in parallelo ai ministeri, e quindi poi ti rischi di trovarti, non dico una duplicazione, ma di incasinare tutto, perché la struttura piramidale decide, poi però magari c'è la firma del ministero, del ministro, trasporti, ambiente e quant'altro, scuola, che te blocca tutto. Vedi anche tu questo rischio? Beh sì, perché allora si parte con questa struttura, chiamiamola, di una task force politica, quindi una regia politica con il Presidente del Consiglio, i ministri di Gualtieri e Patuanelli, e fino a qui va bene, perché immagino che ovviamente ci debba essere un timbro politico. Poi però cominciano i problemi, perché appunto una struttura di missione formata da 6 manager, ognuno per ogni area di intervento, una task force di 300 persone, e poi ci dovrebbe essere in ogni caso la supervisione, perché il referente su Bruxelles è del ministro Amendola, che è il ministro degli affari europei. Allora la sintesi andrà fatta lì, evidentemente, perché Calenda ha ragione, c'è un rischio di sovrapposizione o di duplicazione, ma questa sorta di cabina di regia dovrebbe appunto fare una selezione dei vari progetti a quello che si sa, si era partiti a luglio, settembre, che erano oltre 600, adesso sarebbero 100, sono comunque tanti, perché poi in effetti le missioni sono quelle già definite dalle linee guida della Commissione Europea. E certo che c'è un problema, perché le competenze ministeriali non è che vengono meno in campo. No, ma io banalmente ti faccio anche l'esempio: se poi deve essere approvato dal ministero e ti serve la firma, cioè questo paese si ferma sempre sull'ultima firma o sull'ultimo, diciamo, bollo, no? Cioè, se poi ci deve essere comunque l'approvazione del ministero, il ministero dice no, vuoi per gelosia, vuoi perché non si fida, vuoi per qualche altro motivo, lì rischiamo di avere un processo ancora più farraginoso. Sì, esattamente, mi viene in mente per converso quello che ha deciso la Francia. La Francia ha deciso sostanzialmente di incaricare il ministro dell'economia Bruno Le Maire con un semplice cambio di denominazione del ministero, che diventa il ministero dell'economia e per il recovery, e l'intera struttura di finalizzazione dei fondi europei è in capo a lui medesimo. Allora, aspetta Dino, perché devo risistemare il tuo collegamento, perché giustamente è pessimo. Adesso vediamo di prendere il collegamento. Intanto vado sul traffico, perché questo, l'esempio francese invece mi interessava moltissimo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Dunque, Dino Pesole, ci stavi dicendo si poteva fare come hanno fatto in Francia, e lì ti ho interrotto. Sì, sostanzialmente la Francia ha operato una scelta molto più snella, mentre noi ci stiamo complicando la vita. La Francia ha deciso semplicemente di affidare al ministro dell'economia Bruno Le Maire, che è ministro dell'economia, con un semplice cambio di denominazione del ministero, che adesso si chiama Ministero dell'economia e per la ripresa, cioè il recovery, e ha affidato unicamente alla struttura da lui presieduta la gestione e la finalizzazione dei fondi del recovery fund. Molto più semplice. Allora ci sono due possibilità: o qui noi abbiamo una patologia nel complicare gli affari semplici, che può essere, oppure, per citare Andreotti, a pensar bene si fa peccato ma spesso ci si azzecca, e cioè il meccanismo francese in cui si è messa semplicemente una parolina Ministero dell'Economia e del Recovery dà troppi poteri a Le Maire, o meglio, mentre lì hanno Macron e Castex, l'ipotesi circolata è che Conte non volesse farsi, la dico male ma fammi capire, farsi offuscare, avere un Gualtieri troppo potente, perché se tu dai tutto al Ministero dell'Economia e Finanza e il Recovery, quello decide e bypassa anche gli altri ministeri, e quindi creiamo una piramide un po' come gli stati generali o il piano Colao, una piramide con un presidente del consiglio, due ministri, sei mega commissari, così, in qualche modo per non offuscare Conte. No, questo è vero, però c'è già una cabina di regia insediata a Palazzo Chigi dai primi di settembre, che è quella presieduta dal ministro Amendola. Quindi capisco che ci siano delle discussioni politiche molto accese in corso, i giornali ne danno conto con grande evidenza, c'è una pressione da parte di Zingaretti al pari di 5 Stelle, ognuno vuole essere presente in modo attivo al tavolo, lo capisco, perché si tratta di risorse senza precedenti, però qua effettivamente c'è un rischio, perché se noi creiamo una struttura così complessa con quello che dice Calenda, che poi ci possono essere, possono intervenire delle duplicazioni oppure dei contrasti oppure degli intoppi procedurali che derivano dal fatto che ci sono pur sempre i ministeri, rischiamo che tutto questo si blocchi. Cioè, cosa facciamo? Sospendiamo tutte le autorizzazioni ministeriali? Boh, non ho capito. Appunto, bisogna trovare uno strumento che debba essere sostanzialmente più agile. Cioè, alla fine di tutto questo, di questa impalcatura piramidale, ad esempio, io francamente ancora non ho capito alla fine chi decide. Oh, un dettaglio. No, ma io dico attenzione, perché secondo me Conte rischia moltissimo in questa sua paura, diciamo, di avere un personaggio forte, perché chiaramente i sei manager, non è circolato un nome, ma facciamo una scommessa, dubito che saranno ha grandissima visibilità, rischia, perché rischia di rappresentare la sua debolezza più grossa, a mio avviso. Non devi mai aver paura di circondarti di persone forti se ti senti forte. Su questo vedo, ecco, molte domande. Scusami Dino, tu hai capito, nel frattempo il governo con il DL Italia Veloce aveva già chiarito che c'erano 30 opere da commissariare, e lì come si inserisce in questo? Ma infatti, cioè, poiché c'è già un percorso avviato, si inserisce nel senso che dovrebbe confluire all'interno di questo mare magnum del recovery plan e trovare una sua sistemazione in progetti che però a questo punto devono essere finalizzati fuori tanto di cronoprogramma. Quindi quando facciamo la prima tranche, una volta effettuata la prima tranche scattano i primi fondi, quindi bisogna finalizzarlo in relazione alle risorse che poi dovremmo ottenere, che in ogni caso saranno non tantissime, perché se va bene, se ci sarà un accordo il 10 e 11 di dicembre al Consiglio europeo, noi avremo sostanzialmente il 10% delle risorse complessive, quindi entro giugno dovrebbero arrivare 20 miliardi. Con questi 20 miliardi bisogna capire cosa ci facciamo. Siamo ancora in questa fase, però io credo che se questa fase si affronta con questa, come dire, struttura elefantiaca, non partiamo benissimo, però siamo pronti e felici se saremo smentiti. No, ma figurati, se scopro che mettono un Cotarelli, un Mario Draghi, un super manager, gestire tutto, certo. Ma figurati, io chiedo venia un secondo dopo. Il problema è che la sensazione è che qui la priorità è la sensazione. Che la priorità sia non offuscare, indebolire il Presidente del Consiglio, non invece trovare il meccanismo più snello, efficace possibile. Spero anch'io per il futuro del paese di sbagliarmi, del futuro di Conte mi interessa molto meno, ma ritengo che se va avanti su questa strada verrà indebolito politicamente in maniera molto netta, più di quanto non pensi invece di avere una struttura forte. Delle volte anche affiancarsi con una persona molto forte ti rende più credibile, però sai, ognuno ha le insicurezze che ha. Grazie anche a Dino Pesole, così ho risposto anche all'ascoltatore che dice lei lecca il governo, se questa le è sembrata una leccata. Abbiamo opinioni diverse su come si lecca. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Figli che diventano grandi, grandi scelte. Scelte che coinvolgono l'intera famiglia, come per esempio decidere in quale scuola superiore iscriversi. Ma i padri eterni vi danno una mano con gli Open Day di Radio 24. Sì, parleremo con presidi, professori ed esperti, perché in un anno complicato come questo orientarsi fra licei, tecnici e professionali non è facile in una scuola che sta cambiando volto. Un'occasione unica per noi genitori. Vi aspettiamo! Gli Open Day di Radio 24. Ogni domenica alle 11.45 con Maria Piera Ceci e i padri eterni Matteo Bussola e Federico Taddia. Non pensavi di essere così felice di vederla crescere. Avete condiviso di tutto in questi anni. Andiamo, papà! Però avevi paura che col tempo il vostro rapporto sarebbe cambiato. E invece... Grazie agli interventi di manutenzione e riparazione di Mini Regeneration, lei è sempre la stessa. Scegli Mini Regeneration per la tua Mini con più di 4 anni. Per te un mese in più di sconti dal 30 al 40% sugli interventi di manutenzione fino al 31 dicembre 2020. E noi ti regaliamo il servizio Pick Up and Delivery. Così potrai avere il ritiro e la riconsegna della tua Mini direttamente a casa tua. Scopri di più su regeneration.mini.it. Ti bastano la targa e pochi minuti. Con SkyQ è ancora più facile trovare tutto quello che ami in un unico posto. Per te che ami la velocità, che vivi per l'azione, che non ti spaventi davanti a un T-Rex e credi ancora nelle favole. Ciao babbo. Ciao Pinocchio. Scegli Sky e Netflix insieme con show, serie TV, Sky HD e Netflix a soli 19,90 euro al mese per i primi 12 mesi. SkyQ, tutto quello che ami in un unico posto. Facile, chiamaci 02 80 80 o vai nei negozi Sky. Costi e condizioni su sky.it. Alza, alza. Esperti. Moneyfarm, eletto per il quarto anno consecutivo miglior servizio di consulenza finanziaria indipendente in Italia. Hai sentito? Io infatti investo con loro. Io ho il mio consulente. Io con loro ho un intero team di esperti. Ah. E la volatilità? Ogni tanto ribilanci? Ma da quando sei così esperto? Ci vuole un attimo. Vai su moneyfarm.com, il consulente finanziario indipendente eletto numero uno in Italia. Moneyfarm, il tuo migliore investimento. Bentornati a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Oggi tocca a sottocosto. Del risparmio all'avamposto, lunga vita al sottocosto. Scontata! Lo diceva anche l'Ariosto. Non c'è uguale a sottocosto. Più scontata! Al Gigante fino al 9 dicembre c'è il sottocosto. I prodotti li paghi meno di noi. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco. Noi di Banca IFIS ti supportiamo per far crescere il tuo business. E per farlo bene ti siamo sempre vicini. Banca IFIS, il valore di crescere insieme. Focus Economia. Minuti. Allora, per chiudere sulla critica al piano esposto da Conte, la piramide, che a mio avviso è una struttura parallela che rischia di complicarsi, di scontrarsi con i ministeri, e del fatto che invece la Francia abbia messo tutto in mano al ministro dell'economia e finanze, aggiungendo la dicitura e recovery, io la penso esattamente come il commissario europeo Gentiloni, che non può certo essere accusato di essere anti-italiano o anti-governativo, visto che appartiene al PD ed è stato Presidente del Consiglio. Sentite cosa ha detto Gentiloni ieri a Rai 3 a mezz'ora in più. Non è il mio mestiere. Osservo che in alcuni paesi è stata fatta esattamente la scelta, per esempio in Francia. In Francia si è preso il ministro delle finanze, Bruno Le Maire, e gli si è attribuita la funzione di organizzare anche il piano di recovery. E gli si è cambiato anche nome, Ministero delle Finanze e della Reprise. Fare un nuovo ministero? Ho avuto una certa esperienza durante un governo di 15-16 anni fa, di spacchettamento e istituzione di nuovi ministeri ci vuole molto tempo nel sistema italiano. Io penso che comunque questa sia per antonomasia una scelta che compete al governo e al Presidente del Consiglio. L'importante, visto da Bruxelles, è che si creino le condizioni con le dovute modifiche organizzative e legislative, se necessario, per semplificare alcuni processi decisionali. A me non preoccupa se lo fa Tizio o Caio, a me preoccupano i colli di bottiglia, le strozzature che hanno reso in questi anni molto difficile il lavoro di utilizzo dei fondi europei. E non ce lo possiamo permettere per il recovery fund. Sì, a me anche preoccupa, aggiungo, il fatto che siamo a dicembre praticamente e adesso iniziamo a parlare della struttura. Io non so. Adesso. Allora, come nel calcio, il catenaccio e la melina può funzionare, però attenzione, perché poi se non la sai usare ti prendi gol. Mettiamola così. Andiamo avanti, dai. Allora, Ilva, ex Ilva, si chiude, spero, la partita sull'Ilva. Perché? Perché lo Stato torna nel settore dell'acciaio dopo essere uscito col piano di privatizzazione del 95, quando fu ceduta ai Riva, poi il commissariamento del 2012. Adesso Invitalia, la società guidata da Domenico Arcuri, entrerà nel 50% della M Investco. Domenico Palmiotti, in collegamento con noi da Taranto, buonasera. Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori. Ci puoi dire, insomma, che cosa capiterà adesso? La vicenda l'abbiamo raccontata molte volte, è, devo dire, un parziale fallimento di un'ipotesi iniziata già due governi fa di riuscire a vendere l'Ilva a un privato. Il governo deve entrare, se ricordiamo anche perché, quali erano le condizioni poste da ArcelorMittal, che l'11 dicembre firmerà comunque per Invitalia in Amen Invesco, e che cosa capiterà adesso, prego. Che cosa capiterà appunto stasera? No, intanto perché si è arrivati a dover entrare col 50% nell'Ilva. Beh, lo Stato anzitutto è entrato perché non ha accettato il piano che ArcelorMittal aveva presentato a giugno. Secondo il governo, quel piano presentato da Mittal a giugno contraddiceva l'accordo che era stato fatto qualche mese prima, a marzo. E quindi lo Stato praticamente aveva deciso allora che ci doveva essere un coinvestimento pubblico che adesso si realizzerà con l'accordo che si stringerà appunto fra una decina di giorni. Invitalia entra col 50%, entra subito col 50%, assume il 50% della governance, la governance sarà condivisa, poi nell'arco di due anni, quindi giugno 2022, in contemporanea con l'acquisto dell'azienda da parte di ArcelorMittal, lo Stato in Invitalia andrà al 60%, ma si lavorerà perché questa scadenza di giugno 2022 sia anticipata. La produzione, adesso la produzione è intorno ai 3.300.000 tonnellate, il prossimo anno, secondo il nuovo piano che si sta definendo, salirà a 5 milioni e poi via via crescerà per attestarsi a 8 milioni di tonnellate nel 2025, quando si andrà a regime. Come sarà fatta questa produzione? Da alto forno tradizionale, verrà rimesso in piedi e riattivato il grande altoforno 5 che è spento dal 2015, ma ci saranno anche dei forni elettrici e quindi con l'utilizzo del preridotto. Per quanto riguarda il personale, ci sarà una discesa temporanea dell'occupazione perché ci saranno dei cassi integrati, 3.000 persone in cassa integrazione il prossimo anno e poi via via la quota dei cassi integrati decrescerà sino ad arrivare a 1.200 nel 2024 e ad avere zero cassi integrati nel 2025. Questo è un po' lo schema dell'accordo che appunto firmeranno fra una decina di giorni ArcelorMittal e Invitalia. Ultima domanda, chi sarà ai vertici? I vertici dell'Ilva cambieranno? I vertici dell'Ilva, ecco, è un tema che Arcuri non ha affrontato oggi, però il presidente dovrebbe essere espresso dallo Stato, l'amministratore delegato dal privato, ma in ogni caso anche l'amministratore delegato espresso dal privato sarà condiviso. Si vedrà appunto se verrà riconfermata Lucia Morselli, che al momento apparirebbe in pole position. Allora, grazie anche per la sintesi a Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Si dovrebbe così chiudere la vicenda a questo punto definitivamente, dopo gli inciampi, i bastoni messi tra le ruote da ArcelorMittal. A vicenda che invece non si è né aperta né chiusa è quella di Unicredit. Perché né aperta né chiusa? Perché si era creata molta amaretta nel fine settimana, quando erano circolate ipotesi di un consiglio di amministrazione straordinario domenica, e che avrebbe messo in discussione i vertici, cioè Jean-Pierre Moustier alla guida del gruppo Unicredit. In realtà poi il gruppo ha chiarito che si è trattata di una riunione informale e non di un CDA straordinario, che il comitato nomine inizierà mercoledì e darà ufficialmente inizio al procedimento della governance. Marco Ferrando, del Sole 24 Ore, buonasera Marco. Buonasera a te e agli ascoltatori. Allora, l'agitazione riguarda la posizione di Moustier, che ha detto che più volte che lui non vuole fare acquisizioni in Italia. C'è l'ipotesi di un voce di un matrimonio con Monte dei Paschi, ma c'era anche il progetto di Moustier di creare due società, una da quotarsi all'estero, se ho ben capito, con le attività estere di Unicredit, e l'altra tutta italiana. Sullo sfondo, anche qui da quello che abbiamo capito, il mal di pancia di alcuni azionisti e membri del CDA su un Unicredit il cui impegno in Italia non si capisce, cioè non si capisce cosa voglia fare, a differenza del suo gruppo direttamente concorrente che è Intesa San Paolo. La Unicredit di Moustier è sempre sembrata guardare moltissimo all'estero, ma anche qui senza capire esattamente quali dovessero essere le linee guida. Sì, è così. Diciamo che in questi giorni sembra che tutti questi elementi di incertezza stiano convergendo, e stanno convergendo in un passaggio che solitamente è formale, ma in questo caso non lo è, che è il rinnovo del consiglio. Sostanzialmente in Unicredit, come in altre banche, ad esempio Mediobanca, ormai è il consiglio uscente che prepara la lista per quello successivo. E in questo caso il consiglio uscente deve decidere se in lista ci sarà il nome di Moustier oppure no. In questo momento confermare Moustier vuol dire confermare una strategia che effettivamente dovrà prevedere delle scelte sull'estero, e quindi con il progetto, come accennavi tu, di costruire questa, o di separare l'attività straniere, un progetto che prevedeva nella forma originaria anche appunto la quotazione, quindi una progressiva perdita del controllo da parte del gruppo stesso, e dall'altra parte lasciare le attività italiane che sarebbero candidate a rilevare Montepaschi, che sappiamo essere al centro di molte attenzioni da parte del governo. Diciamo che in questo momento stanno venendo tutti noi al pettine, perché Moustier non gode in questo momento di ottimi rapporti con buona parte del Consiglio, ci sono pressioni politiche che lui sta cercando sul vantaggio di Siena, che lui sta cercando di contenere o comunque sta trattando per avere delle condizioni paragonabili a quelle a cui vennero date le ex Popolari Veneti e Intesa San Paolo. E c'è un mercato che effettivamente non è felicissimo, perché il titolo non va tanto bene, e cioè, va molto peggio, diciamo, della media, e che già non è brillantissima, del settore bancario, anche perché è un mercato che dice: tu quando sei arrivato, cioè 4 anni fa, hai fatto l'aumento di capitale più grande che sia mai stato fatto dalla banca europea, hai venduto dove devi vendere, ma poi si è faticato un po' a vedere questa creazione di valore, che oggettivamente non è facile per il contesto di mercato, ma che nel caso di Unicredit si fatica un po' di più a trovare. Sì, appunto, e che cosa vuoi fare da grande, inteso come dopo l'aumento di capitale, se lo chiedono molti investitori, e che cosa vuoi fare come proiezione della banca, mezza italiana, mezza all'estero, oppure ti impegni più sulle attività italiane? Questo un po' è rimasta oscura, e più nel momento in cui continuiamo a ragionare del risico bancario italiano, visto che dopo l'operazione di Intesa c'è l'offerta del Crédit Agricole sul Creva, sul credito valtellinese, quindi insomma il processo è tutt'altro che concluso. E quindi da mercoledì, per concludere Marco, dovremmo avere, forse i nodi si stringeranno ancora di più sul pettine? Sì, è così. Diciamo che a quello che ci risulta anche oggi il comitato, diciamo il consiglio informale, poi le etichette lasciano il tempo che trovano, si è riunito di nuovo a conferma di una discussione che è particolarmente complessa, animata, e quindi la situazione effettivamente è abbastanza, è, diciamo, è nel pieno. In settimana appunto ci sarà un consiglio giovedì, mercoledì il comitato nomine. Se ci si metterà d'accordo almeno sul metodo piuttosto che sul nome, si capirà che Mustier rimarrà e probabilmente farà la subholding e Montepaschi solo a condizioni analoghe a quelle di Intesa. Dovesse uscire, beh, si apre uno scenario abbastanza variegato. E saremo qui a raccontarli. Grazie anche a Marco Ferrando, Traffico, e poi andiamo con Dietro la Notizia con Alessandro Paterotti. Focus Economia. Dietro la notizia. Dietro la notizia con Alessandro Platerotti. Buonasera Alessandro, innanzitutto, editorialista del Sole 24 Sebastiano, ore. A tutti gli ascoltatori. Allora, buonasera a tutti. Iniziamo tutti parlando di Natale, pista da sci. Io già, tra l'altro rispondo anche a chi mi dice ma perché non chiama Zaia. Abbiamo rintracciato Zaia, è ancora in collegamento in videoconferenza con le regioni, probabilmente lo avrà ospite se ce la fa effetto notte, non è che non vogliamo parlare con Zaia. Però, tornando a noi, a proposito di albero di Natale, Che cosa ci porterà come pacchi o Befana, adesso dipende dalle scelte, sì, le banche, è una bella domanda, le banche centrali? Tutto, sotto l'albero dell'economia mondiale ci saranno tanti soldi per i mercati finanziari sicuramente e un po' troppo carbone per l'economia reale. Questo è il paradosso di questo Natale. Da una parte la borsa probabilmente, tutto lascia pensare che punterà sui titoli ciclici, quelli che puntano sulla ripresa, un settore del largo consumo, anche l'energia. Dall'altra parte però è una ripresa senza occupazione, questo è un problema enorme, ma vediamo gli aspetti positivi. Più positivo di tutti riguarda la liquidità. 10 dicembre e 15 dicembre sono due appuntamenti importanti per la BCE, che dovrebbe alzare di 500 miliardi il budget che ha stanziato per gli aiuti straordinari anti-Covid, il famoso PEP, e allo stesso tempo anche la Federal Reserve, la Banca Centrale Americana, dovrebbe aumentare di 220 miliardi, 340, questo è il massimo che si aspettano gli analisti, il ritmo degli acquisti. Teniamo presente che la Fed quest'anno ha ampliato il suo bilancio di 3 trilioni di dollari e da parte sua anche la BCE ha speso 617 miliardi del budget che aveva per gli aiuti, ma ce n'è ancora 730 da parte. Allora, perché la Lagarde dovrebbe aumentare i fondi a disposizione delle banche? Perché quello che lascia pensare anche lei è che il 2021 sarà ancora difficile. E questo apre un altro dibattito. Se facciamo due conti, vediamo che dall'inizio dell'anno tutti i governi occidentali, parliamo di Europa e Stati Uniti, hanno speso insieme 10 trilioni di dollari annunciati in aiuti. Quindi 10.000 soltanto miliardi. Paesi dell'Europa occidentali, cioè dell'Europa occidentale, solo l'Europa, 4 trilioni di dollari, che è pari a 30 volte il valore attualizzato del piano Marshall. Lo stesso discorso vale per il Covid, ovviamente, ma con quali risultati? Prendiamo l'America. La scorsa settimana i dati sull'occupazione sembravano indicare la ripresa. Poi sono venuti fuori le correzioni e vediamo che cosa. Che sono 2,5 milioni gli americani che erano senza lavoro da 27 settimane o più, questo la scorsa settimana, che è la soglia utilizzata per definire la disoccupazione di lungo termine. Allora, i problemi sono enormi, soprattutto alla luce di quanto è stato speso. Prima o poi un bilancio andrà fatto. Tutte queste contraddizioni di cui parliamo le vedremo in borsa. Che cosa sta succedendo? Oggi hai visto, c'è una mini correzione, ma è anche concepibile dopo quello che è successo a novembre, dove si è un po' ribaltata il Bitcoin. Adesso addirittura oggi Goldman Sachs e altre banche di investimenti parlavano addirittura di 350.000 dollari a Bitcoin a fine 2021, mentre l'oro crolla, peggior mese degli ultimi 6 anni. Perché crolla? Perché la corsa che c'è stata ad acquistare futures in dollari sull'oro ha destabilizzato il mercato. L'oro non può costare troppo, ne abbiamo parlato tante volte insieme, e infatti le pressioni rimarranno molto forti. Piccole aziende, questo è un momento di puntare per chi fa l'investitore globale sul settore delle piccole e medie aziende, il settore che ha guadagnato meno nel mese di novembre, e se tutto va bene per Biden, e questo l'abbiamo già visto oggi con la nomina della Yellen, ci sarà un maxi piano di stimoli con l'aiuto della Federal Reserve anche, che sicuramente aiuterà notevolmente tutto quel settore quotato. Attenzione alle tech, perché io dico sempre, sono 11 titoli, hanno fatto 3/4 dei guadagni dell'anno per tutto l'indice. 11, quindi questa è una situazione sicuramente... Quindi tu dici, rischia di essere già molto alto come livelli. Assolutamente, e lo stesso vale poi in generale per titoli come quelli delle biotecnologie di cui abbiamo parlato. Una finestra molto interessante che ci apre anche una cosa positiva è l'aerospazio. Se andate a guardare i titoli del settore aerospaziale puro, beh, vedrete che stanno correndo già da 2-3 settimane. Il motivo è molto nelle cronache. La Cina ha annunciato che costruirà la sua base spaziale e sta già molto avanti. Ha mandato un uomo sulla Luna la scorsa settimana e non se n'è nemmeno parlato in Italia. E la Russia uscirà dalla Stazione Spaziale Internazionale, lasciando l'America e l'Europa da sole, e farà la sua stazione. Questo è un momento di grande ripresa per tutto quel settore, mm-hmm, e anche un po' di fantasia e buone notizie. Ecco, sì, che mancano in questo periodo. Un'ultima battuta. C'è chi dice, attenzione, visto che il valore delle attività finanziarie inondate di liquidità, come tu ricordavi, e con tassi, sì, bassi, è intorno agli Stati Uniti quasi al 400% del PIL, sì, esatto, è difficile, sì, che le banche centrali facciano delle mosse per far crollare le borse, nel senso che manca solo che adesso vengano giù anche le attività finanziarie, impoverendo ulteriormente sia le società che gli azionisti. Molto semplicemente, posso spiegarvelo molto semplicemente. Se facciamo il rapporto fra il valore di tutti gli asset finanziari, quindi escludiamo i palazzi, gli impianti, le fabbriche, sono asset finanziari, e il 395% del PIL. In America. Questo significa che l'economia è altamente troppo finanziarizzata. Allora, qualunque movimento degli asset finanziari schiaccia tutto il sistema industriale che c'è sotto, e questo le banche centrali non possono permetterselo. Per questo motivo si dice che per la borsa sarà un periodo lungo di espansione, perché in questa, chiamiamola trappola se vogliamo, certo è meglio una trappola che una catastrofe finanziaria, ma sicuramente la liquidità che arriverà ai mercati è quella che mancherà all'economia, e questa è la vera, il punto su cui si dovranno confrontare il G20, quando abbiamo parlato dei debiti insieme, perché la questione tornerà a galla. Eh sì, perché c'è anche la trappola che tu evocavi, si chiama in gergo economico trappola della liquidità. Grazie anche Alessandro Praterotti, vedo molti ascoltatori che apprezzano la qualità del segnale, cioè siamo intervenuti, non con tutti ce la facciamo, con Praterotti ci siamo riusciti, si sente finalmente in maniera perfetta. Grazie Alessandro Praterotti, che ritroveremo lunedì prossimo con un altro appuntamento con Dietro la Notizia, ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, che invece torna domani dalle 17 in poi. Da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.